Grazie per essere attivi, non ha giù un fischio. C'è una cosa che ha suicidato, non lo puoi catturare all'asso, non è che noi ci può fare per le frattiti, ha sputato il tuo canto, già venito da sputare frequenza per il vivo muro. Ma già vai, ma già vai, ma già vai, ma già adesso siccome è diritto a fare altre cose, in questo periodo sta uscendo a quest'ora, capisci a me, no? Adesso è rientrato a fare quello, e allora chi sa che se ci state adesso qua avete visto rientrato dopo 10 minuti, io solo 10 minuti sono passati, e come fate uno di che tracca grazie che c'è quello mancato, ma non manca Fabizzano, non si vede già manca Fabizzano. E se tu vuoi fare questo volano, io te lo dico, ma al tavolo del televisore non fa niente, no? E poi legge su casa sua e devo fare, ma non ci va di mettere il lago nel filo. Ma se c'è un po' portata, non c'è, il fatto è che non c'è proprio l'antenna, capito fuori, perché così no, non sa nessuno che lui, mi la verità, non sa così non scoprono chi è che paga Lucrezia. Stai a fare Lucrezia. Vecilla e poi cavolo, ci prova sempre, ci prova e poi ci, cioè non fa niente, perché noi ce ne veniamo qua e è tutto. E che faccio se compagino Valacchi da cosa papi cigli? È meglio un po' di vino. Vabbè. Ma vedo le bevande che costano poco. Ma il migliaghizzo, eh? Io no, io se ve la consiglio, se lo faccio un gamma, non è che a comparazione manco fa idea. Se ne aveva cavato un poco di cranio, dai nato. Sì. Gli altri sono due cagacchi rompicato lì, ma non di altro come. Se non vi avete mai non va andare a tutti i bini. Va bene, ci ha fatto un ricordo per domani, vedete qua. Ok, dai, ci sentiamo, no? Sta più bene. Avanti, anzi. Ok, dai, ci sentiamo, vediamo adesso cosa succede. Ciao, ciao. Quello che ha detto è una parola grossa. Che cosa? Tenere un'attività del genere chiusa. Che cosa fa? Viene con la cagaretta? Non lo so, veda lui, non lo so. Boh, non so questo. Si troverà qualcun altro. Però è difficile spiegare. E se avessi avuto la patente tu avresti lasciato toppare a casa, se sei andato tu da sopra. E invece non ti ripiti, dice, ma attende. Prima o poi già la prendo. Ma gana? Meglio prima che poi, Per te, Mianni. Per te, qualsiasi cosa ci sia bisogno, c'è la patente per guidare la macchina, per guidare la motocarrozzella. Già serve. Per me il consiglio che ti do è prendertela più presto, perché è una cosa che a te ti serve molto, molto, a te come a tutti, ti rende indipendente. Se va a poter una gara di sci, devi pigliare la macchina, ti la pigli, andi in giro, vai dove fuori, tutto. E vabbè. Prima o poi la prenderò, dai. Come fa il Kent, tu sei prima o poi quando la pigli mai. Vabbè, come vuoi tu, non c'è problema. L'interessante è che tu ti renda conto che è una cosa che serve, ti può servire per sostituire tuo padre quando non c'è, ti può servire anche a te, non è che è una cosa molto utile la patente al giorno d'oggi, è proprio lo spostamento che fai, che ti serve. Siamo stati a fare cose della patente per il laboratorio, ma la De Monti si lì via Corrado e ti fai tirare la pina, già lo so, già lo so dove andare, già lo conosco a Ennio, a Puglia, che ha pagato, allora cosa ti fai, vai, ti rapidi una volta per tutte e non mi pensi più. Già lo farò prima o poi, avrei avvedito. Ma fammelo vedere, dai, non tu. Così con la trappola ti festeggiamo, La patente gli aveva dato la seminata, la patente gli aveva dato la seminata, e non si accudi mi ruppa, non pigliarsi all'ingana, un trigo di briga d'India. Calduccio, cioè la stufetta per lo sbagliato, Giulia. Gabi, tanto ci capiamo anche la canzone. Per la canzone. Ma di ragazzo la tua la figli. E prima o poi già me la prendo, non ti preoccupare. Ma vabbè, io non mi preoccupo, non consiglio che ti sto dando dopo tutto di tutto. Un villaggio da voi. Vabbè. Ah, me la video. È una cosa utile. Cappagare. Chi è che ha detto ella? C'è qualcuno sotto. Non lo so, a volte se c'è qualcuno sul canale 5. Vabbè, 45. E qua lo segna, 4-5. Cappa, ma chi a me lo segna? 27-4-6-5. No, qua ma c'è proprio 45. Lo so, ho avuto anche un baracchino che segnava tutto sino a 200 canali. Ma che carpa, 90, 91, 92, chi ne segnava tutto? Anche questo. La sintonia continua. Quando lo sai non c'è bisogno che te lo segni, basta che tu lo sappia su che canale sei. Io ne ho uno che, cioè, se non risai, no, non ci riesci ad andare sul canale, perché sono sbagliati. Basta che tu apri la tabella come fanno gli altri. La tabella se dove sei. Vabbè, io li so a memoria perché lo so parecchio, io oramai li so a memoria perché conto, quindi so dove andare. Beh, se sei a memoria quelli, se memorizzi quelli, puoi memorizzare anche la patente, no? Certo. Oggi ti stressa. Padre, io già so le cose. Sai. Formazione segnale il pericolo. Il pericolo generico. C'è una. C'è il puntino sotto e la cosa. Non pare che lo sei. Cosa? Sono un triangolo rovesciato. No, sono a triangolo e ci sono i pannelli aggiuntivi dove c'è questo scritto caduta massi, curva pericolosa, eccetera, eccetera. Già lo so, già l'ho visto. Dai, però poi me la prenderò, cazzarola. Quindi ti interrompo, eh. Mi segnali tu, dico. Ti lascio in pace, non ti voglio stressare. Sto scherzando. Prima o poi mi dovrò stressare. Per me non è sempre lo stesso, ti dico la verità. Ma dite che partecipavo a due lezioni, perché vabbè, c'avevo un motivo. In una lezione andavo per ascoltare, nella seconda lezione perché frequentavo una tipa che mi piaceva. Bondina, carina. Ci andavo molto volentieri, lei si sedeva sempre vicino a me perché diceva che ero bravissimo. Mi chiedeva sempre le domande, diceva ma come mai tu devi imparare? Se non impari con l'esame, te ce l'ho io. Ed era anche una tipa che abitava la Te Dolce, molto carina. E voleva che, siccome gli ho chiesto di uscire e cose, mi aveva detto che era un periodo che stavano traslocando e che stava aiutando un po' a casa, che comunque se volevo andare ci potevamo vedere di arte dolce, così no, non vi varo io. Siamo una tipa che io un mese di parte, cambia. Ci conosciamo da tanti anni, ci conosciamo. Ma dove? Lavora lì alla Sissa. Tu vai sempre a fare un balino baghissimo. No, ma comunque, no, vabbè, ci conosciamo da moltissimi anni, da una vita. Adesso me l'ho ritrovata e ci parliamo. Un bel carina. Tanto, io te lo devo dire. Bisogna avere un po' di tatto via. Già. Sto provando. Non bisogna mai partire in quarta con le donne, bisogna avere tatto, nel senso che bisogna essere delicati, gentili e cose, no? Quindi c'è una donna che passa in quarta, non lo tengo. Praticamente abbiamo fatto il catechismo insieme, hai capito? Ho capito. È un amore allora stantio. No. Vabbè. Ma comunque lei mi guarda sempre. Ci parliamo, c'è da poco, non va. Sai com'è? Tu dici, ha scoperto il numero di telefono. Prima mi devo assicurare di una cosa. Non abbia ragazzo. E come fai a saperlo se non conosci il suo. Se non conosci il suo modo di vita, di cosa, uscendo dal lavoro, come fai? Ma io mi riguardo, cioè io osservo sempre, sto sempre guardato da una parte all'altra. A 10 fai 2 a 1. Ma perché l'ho visto per tutta la faccia del travaglio? Poi si anche fuori del lavoro, anzi, quasi sempre fuori del lavoro. Sì, ma molte volte sai come fanno a prenderle, eccetera. Ma io penso che vita non sia occupata però, No, beh, te lo dirà lì, non si occupa, che c'è qua, c'è un ragazzo, non posso, perché un ragazzo, ci rimarrei un po' male, insomma, è già di là. Adesso vediamo un po'. Bisogna essere decisi nella vita, tanto. Decisione, Michele. Già lo so. Adesso provo a chiedere. Provo a chiedere qualche giorno, Luigi. Cappa. Ok. Mi c'è scusa se la cosa devi fare. Perché? No, se ti facevi un giro insieme a me, così conoscevo la lavoro, ci trovavamo magari a prenderci un caffè insieme, una cosa così, un più di lì. Che si può fare anche? Tu li parli, no? Lì ci sei occupato, sei al ragazzo, sei qua, sei là, blu. Bisogna che ti vengano a solo i discorsi. Io... Vabbè, non te lo dico. Già lo so. Deve avere un certo lessico, devi attirarla in qualche cosa. magari nelle cose che vi racconti, queste cose qua. Bei tempi quelli, quando rimorchiavo. Beh, era che mi stavano chiedendo una cosa. E se ti è passato, mi hanno chiesto una cosa. No, ho detto che erano bei tempi, quando lo facevo io. Già lo so. Adesso non ti puoi manco guidare. Perché magari fai anche avanzamento di ti chiamai la pulizia subito. Vabbè, scusa, se non è che fa il manesco, che mi rimane in alto, non penso che abbia niente da denunciare. Cioè, se tu ti fai avanti e dici che magari ti ho notato, sei carina, questo e quell'altro, ma senza niente di che, non penso che si chiamano, cosa gli dico la polizia? Ma solo abbiamo fatto la dichiarazione, abbiamo fatto capire che se ci stavo con lui, ma finire. Bisogna andare piano piano. Piano piano. A una velocità giusta. Piano, nel senso che ci parli, ci fai, prima. Deve farti sparire il pallino. E pensare che è una persona, no? Che ragiona, che ha i sentimenti, che ha le sue cose. E poi tutto il resto viene da sé. Certo. Peccato. Poi altro. Tentaci. Ma se no chi ha la Budimundi, sai? La Budimundi. Ah, quindi vi dirà che è lui a Bruzzo. E allora mi manca difficoltà a trovarle a me. Vabbè. Ho capito di tutto. Antonio non essere rude come tuo padre, deve stare. Mamma mia. Così si è arrivato il patto della polizia da arrivare giù. E molti no, molti è una parola grande. Ti sento io magari perché sono vicino in linea d'aria, dai. Vediamo, non ci affacci nessuno alla finestra, ragazzi, sennò come ti lanciare l'imbaraggioso da rovinare. Mamma mia. Quanto vai se ti fa uno scatto a tuo padre, dopo ti chiude dentro in bagno a chiave, cosa fai? Disarracciali. Così è. E chiude il bollino profumo. La paletta anche mai che fa girare la testa, vero? Ma non è solo la saponetta che la fa girare la testa. Come si chiama questa qua? Com'è che si chiama? Tanto quella della sera c'era tutti i cartelli attaccato, lavoravamo anche noi, ma chi lo perdeva, che faceva? Poi alla fine abbiamo tutti. Come si chiama questa commessa? Che così vado a vederla. Mamma mia. A me lo vedi. Alessandra si chiama. Alessandra. Adesso andiamo, controlliamo. Prendiamo il tuo asco, ma tu ragazzo ce l'hai. Cioè, perché? Perché c'è una persona qui in Tedesi. Ti metto in culo. No. Non so così brutale io. Come faccio quelle cose, sono educato. Ascolta, tanto. Dove sta questa qua, frutta e verdura, salumeria? Ah, è già a ricascitarsi. Allora si è preoccupata, guarda, come io aspetto non siano qui. Lo so. No, ma chi sta lì a ricascitarsi sta anche agli scaffali, quindi. Può darsi che si trovi anche agli scaffali. Agli scaffali, già. Ah, è un ben gamba, Che... Cosa fai? Faccio il rimorchiatore, chi dice che ma dico l'una, ma dico l'altra, che la lasciano così. Secondo me sono cose offensive fare cose del genere. Ma cappa. Sai cosa fai? Te lo do un consiglio. E allora sì. Quando ti dà lo sconsiglio, la cassa, prendi la fella, le scrivi il numero di telefono e gli dici telefono da questo numero. Lo prende in mano e poi il telefono, se vuoi. Lo sai come ti dico che mi hai raccontato, no? Come ti ha detto che dopo è stato l'ufficio del cultore si era venuto in capo a lui. Andiamo con Antonio come te, pure. Vabbè, magari non era neanche... L'ha messo sul numero e basta, non è che ha altro il numero. Poi se uno non gli piace, va fa così. Ma non è che fa accudirlo, no? Ehi, ma perché tu non sai il resto? Non posso raccontare con queste cose. Ah, vabbè, ti ha messo che sembra in diretta il resto. Perché magari ha fatto un buco. Ha fatto anche apprezzamenti, come se non l'hanno sposata, anche se l'hanno fatto il loro marito e... Ed era buona di marinata, non si salvare mai più, cioè, che l'aveva tolto, è malato, questo e quell'altro. ragazzi, dava solo il numero, no, non succedeva niente. Se non città ci sarà, pazienza. Non è, sono applicatore. No. Uno se me ne accuditi e fa una cosa del genere, allora è proprio... Però le dubbi di ne rimane in nato a esso. Vabbè. Ecco, ma quel caso che è nato a Polo Torres, che è una pizzeria San Gabino, lì a Santa Garibaldi, c'è sul casino. Questa ragazza si era, capito, lasciata col tipo e si è messa con un altro. Praticamente il tipo che aveva prima, geloso, è andato a picchiare il ragazzo che ci aveva nuovo, e invece li picchiarono, è uscito di Susa, l'ha pilato che si ammazza che va bene, ma non viene con la barra a ete. Era passato da cacciatore a cacciato. Allora, molte volte non si sa mai che trovi, ma che tu magari che hai mucato, qui ti ha tenuto il cavalato e non te ne presi più. E come ti dice bene in piazza, che tu ti ha cercato, ti ho raccontato, no, cosa ha fatto per lui. Uno faceva male i manicetti russi, strano, dai. Un pochino, quello che tu vedi, se lui ti dice, faceva il suicidio. Direi che una giussa, si sta cagando campo che faceva a me. Ma era così. Trovo quelli che tu magari hai aiutato, ti faccio un buon bacio, affinché ti chiudi solo un cagnotto e non te ne presi più, eh. E così che succede. Acciappi tutto e andiamo. È così. È così. È proprio così, te lo dico, è proprio così. Fammi ricordare chi era. Zolo, te lo dico così. Bernardo si chiamava. Bernardo. Ma che Bernardo? Bernardo era sottomutto, non so come intende. Sergente Garcia era quello che balbuziava. Zorro non l'hai mai visto? Ah, Zorro? Nessuno, che lo chiamano in ufficio, fra no. Lo conosco anche a Castagna, se mai visto. Esatto, fra no. Tu a Castagna lo conosci? Non ricordo chi è. Ma è no che è. Mica fa del turbino. Cazzi biondi. Un tempo stava con... ma come si chiamava? Con una però che stava lì al ciso. per precisione di quanto a stagna, se lo che è più basso, ma uguale, non so cosa dire, i baffi biondi, gli occhi chiari, è proprio spiccicata. Beh, comunque, Gianni si chiama. Stava sempre a circoloni degli anziani o all'anno, mi sempre lì. Non so quanto questo lavorano qui sopra. Si domanda la potere, che conosci? Il nostro di Alzagare. Picco Cintrana, tu conosci? Beh, che si è fatto a fianco al circolo qui, di casa. Non so voglio. Che capito? No, non ci brana. Quello che sto dicendo io. Capito dove è abitata. La casa bassa che c'è a fianco al circolo acqua. Non c'è mai capito chi è. Ma se devi accappare cosa è subito da dice subito chi è. In questo momento non mi viene in mente. Molto bene. Però forse uno va sciottino. Con i mosatti biondi, gli occhi chiari, quel tipo è solo che basta. Sto pensando. Ed è preciso a castagno. Puta, io ti so già vedere. Beh, castagno. Non si è messo originato. Io sono castagnato, che variai. Come ti castagno dai a mosso? Tu cazzo sei la resuscità. Invece, è un'altra persona. Chiamavano un militare. Un militare, no? No, questo qui no. Si vestiva con la mimetica. Sì. Stava di vicino a cosa serve? Come si chiama? A serve lì. Marucinico, guidava il maruguro. E anche come le ricordo con i capelli dei ciolini lunghi. Tu a Furia lo conosci? Furia? Sì. No. Ho già sentito questo nome. Furia lo chiamano così, ma che chiude un becco. Una volta siamo dovuti intervenire al circolo degli anziani, perché questo bastardo delinquente stavano giocando a carte con questi anziani, questo che ha messo la mano sulle carte, li abbia dello costituito, si è stato costituito nella mano senza motivo. Furia. No, mi su Furia è entrato, l'ha detto a me, la mazza di un buffo, che se piace bene ha affidato il cuscino. A batta, però di passi in passo, se non ti mandi da noi. Se la mia ragione. Sto bastardo. Se ne immagini, questo qui c'è una casa, tranquillo. E l'altro, quello cuscino dove stai entrando nella mano. Io non ho accettato pronto. No, un delinquente. E quindi delinquenti bastardi, pronto. Una cosa che non doveva fare, ma è da giusto che era voluta. Aspetta, io adesso mi chiudo fra poco, che Marco deve dormire qua, se non lo disturbo. Ci sentiamo Antonio, stiamo bene, buon lavoro per domani. Speriamo che vi acchiappire per domani per Paolo, che acchiappi un poco. E fammi sapere qualche cosa dell'abbordamento. Vediamo un po'. Ciao. Buonanotte, gara. Hola. Ciao, che non sto andando che Marco deve riposare, dai. Buon lavoro per domani. E speriamo che stia meglio. Ciao.